quando te ne vai. Io so fare come fa un cane, prenderti tra i denti e nasconderti nel mio posto segreto per venire a cercarti e a disseppellirti quando il tempo tornerà migliore, quando anche questa neve sarà di nuovo acqua che batte contro il vetro, quando te ne andrai via. E io saprò essere un contrabbandiere che ricorda a memoria il disagio di ogni posto in cui è stato, di ogni passo che ha fatto nella notte lungo il confine, di ogni uomo che è passato e che non è più tornato indietro. Ma quando te ne andrai via tu, avremo frasi da ricordare, parole troppo stupide da pronunciare ora, e ricordi indelebili avremo, che è meglio di non dire, e le migliori intenzioni lasciate ad appassire qui.